Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo un radiodocumentario sulla vita di Federico Fellini. Il suo nome evoca tutto ciò che è eccentrico, stravagante, celebrativo e fuori dal normale. Federico Fellini è un regista dallo stile tutto personale. La sua attività di cineasta, spesso intensamente autobiografica, fu premiata nel 1993, pochi mesi prima della morte, con un Oscar alla carriera. Nell'arco di quasi 40 anni, dallo Sceicco Bianco del 1952 alla Voce della Luna del 1990, Fellini ha disegnato in decine di lungometraggi una piccola folla di personaggi memorabili. Ripercorriamo la sua incredibile carriera tramite la testimonianza di amici, colleghi e critici. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel lunedì 29 giugno alle 20. Fellini è diventato un marchio come la Ford o la Sony. Il nome suggerisce l'atmosfera che egli comunica, lo stile dei suoi film, un insieme di sacro e profano, l'umorismo, la caricatura, la poesia, il divertimento. Tutto questo è racchiuso nel termine felliniano. Le ossessioni di Fellini sono sogni, fantasia e immaginazione. Sa come condurre lo spettatore in un viaggio attraverso una Roma antica e moderna, brulicante di clown, feste, parate, suore, preti e prostitute. Non c'è maschera che possa competere con una delle sue facce. Una delle cose più fantastiche dei film di Fellini è che sono divertenti. Solo Chaplin era riuscito a farci ridere e al tempo stesso a commuoverci. Questo vale anche per Fellini. Fellini è un uomo di spettacolo. I suoi film sono fuori dall'ordinario. I Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, Otto e mezzo. Le sue pellicole influenzano persino i registi più importanti del mondo. È un grande, con un grande ascendente. Un genere di regista molto personale. Gran parte dei registi che conosco, quando sentono il suo nome, si tolgono il cappello. Il suo mondo era una completa e totale ricerca del mistero della vita. Voleva capire attraverso la religione, talvolta attraverso la magia, il perché della nostra esistenza. La stravaganza di Fellini sullo schermo si accorda col suo modo di lavorare dietro le quinte. Era una sorta di... un insieme di cose. Una combinazione tra un capocomico, un grande capo, un domatore di leoni e un direttore di circo. Sapeva perfettamente quello che voleva. Sul set era l'unico artista del film. Gli altri erano solo colori del suo affresco. Mentre dirigeva, non faceva che parlare. La sua voce sembrava guidare gli attori per tutta la ripresa. Ecco perché era costretto a doppiare tutti i suoi film. E amava profondamente fare la parte di tutti gli attori. Sembrava trattare gli attori come tanti fantocci. Faceva muovere lui personalmente le comparse e anche i protagonisti, dicendo loro: fai questo, spostati 5 cm a sinistra, 6 cm a destra. In molti casi gli attori in scena contavano. Lui gli diceva: tu non sai recitare, ma io voglio la tua faccia. Perciò conta da 1 a 10 e poi ricomincia. Al resto penserò io. Durante le riprese si trasformava e poteva diventare estremamente impaziente. Si arrabbiava facilmente e spesso investiva di urla gli attori. In effetti, l'approccio di Fellini alla regia era molto simile a quello di un domatore che ha di fronte il leone, di un direttore di circo che deve tenere testa alle belve per costringerle a fare esattamente quello che vuole lui. Spesso correvano a piangere in camerino e lui cadeva dalle nuvole e diceva: perché sono sconvolti? Che cosa gli ho fatto? I film di Federico Fellini si ispirano alla sua vita, a partire dalla sua prima infanzia e dall'adolescenza, anche se raccontati in maniera piuttosto fantasiosa. Riguardo ai particolari della sua vita, non era assolutamente attendibile. Lui credeva alle sue bugie ed era un narratore talmente straordinario che era impossibile distinguere tra la verità e l'invenzione. Quello che è certo, però, è che Federico Fellini nasce il 20 gennaio 1920 a Rimini, allora piccola cittadina della Riviera Romagnola. Nei mesi estivi, Rimini si riempie di turisti, per lo più famigliole pronte a godere le meritate vacanze. I turisti stranieri più facoltosi alloggiano al Grand Hotel. Il Grand Hotel rappresenta la signora della città. È l'unico posto nobile e sfarzoso di Rimini. Naturalmente, nell'immaginario di un adolescente del posto, è un luogo da sogno, irraggiungibile, permesso solo ai nobili e ai ricchi. Il padre di Federico, Urbano, commercia con successo in specialità alimentari e gira la regione vendendo olio d'oliva, vino, parmigiano e prosciutto. Gli affari andavano molto bene. In un certo senso, egli era un classico borghese, ma anche un conquistatore di donne, carismatico come Fellini e soprattutto un padre assente. Il padre di Fellini non fu un marito fedele, come del resto non lo fu Federico. Urbano portava sempre dei regali alla moglie e dal loro valore lei era in grado di stabilire l'importanza della sua infedeltà. Spesso la madre Ida si trova da sola a crescere i tre figli, Federico, il fratello Riccardo e la sorella Maria Maddalena. Veniva da una famiglia molto cattolica. Questo fu uno dei motivi che spinse Fellini a ribellarsi. L'educazione che gli fu imposta, infatti, era repressiva, soffocante, molto legata alle apparenze. Per la madre, l'immagine esteriore era assolutamente essenziale. Più Ida e Urbano si allontanano l'uno dall'altra, più la loro distanza impregna la casa e il loro rapporto con Federico. Fellini era tendenzialmente un solitario, non era il compagnone che saremmo abituati a vedere in seguito. Giocava spesso da solo, così sviluppò l'immaginazione e l'attitudine al disegno. Faceva una grande mano per il disegno. A scuola faceva tutte le caricature dei professori, diventò popolarissimo. Poi il cinema Fulgor, che era il cinema che lui frequentava a Rimini, gli commissionò le caricature di divi americani che poi esponevano per la pubblicità. Lui fece queste caricature. Federico frequenta una scuola elementare di religiosi severi che gli insegnano l'obbedienza e la devozione attraverso la preghiera. La sua educazione fu molto costrittiva, la scuola, la chiesa cattolica, ma lui diceva sempre che per una persona creativa questo era un bene, perché la tua creatività moriva dalla voglia di esprimersi. Più la si soffoca e più lei esploderà. Un altro fattore repressivo per Fellini è il fascismo. L'Italia di quel tempo è governata da Benito Mussolini, il dittatore fascista che resta al potere per oltre 20 anni, passando alla storia come il Duce. Ogni sabato Fellini deve indossare la divisa da balilla e marciare per le vie di Rimini. Era un oppositore naturale, lui era quello che nel corso del fascismo, degli anni del fascismo che lui visse a scuola, era quello che faceva l'indisciplinato, che faceva, cioè rompeva tutti i riti del regime, come rompeva i riti della Chiesa, come rompeva qualsiasi, o i riti familiari della borghesia, lui era un anarchico. Durante le esercitazioni, la mente di Fellini probabilmente è altrove. Sin da bambino Federico è noto per la sua straordinaria immaginazione. Trascorre ore e ore a disegnare e a giocare con dei burattini. Ama i fumetti, in particolare Piccolo Nemo, un giornalino che parla di un bambino i cui sogni notturni sono vividi e fantastici viaggi dell'immaginazione, come quelli di Federico. A 7 anni scopre il mondo del circo. Resta affascinato dai clown, che lo intimoriscono e attraggono allo stesso tempo. Inizialmente ne era spaventato, ma poi per anni raccontò la storia di come scappò per unirsi ad un circo. In realtà la sua fuga durò un solo pomeriggio, ma in quel pomeriggio egli ebbe l'opportunità di lavare una zebra. Quella rimase una delle esperienze tattili più straordinarie della sua vita, la nostalgia della sensazione avuta nel lavare una zebra. Spesso si rifugia nel cinema Fulgor, dove ama vedere film americani, soprattutto commedie come quelle dei fratelli Marx e di Charlie Chaplin. Ma Federico desidera ardentemente liberarsi di Rimini, della chiesa, del regime e dell'occhio indagatore di sua madre. Sogna di andare a Roma. Nel 1938 Fellini lascia la casa e la famiglia e si trasferisce nella città eterna, dove trova lavoro come collaboratore epistolare con giornali e riviste. Quando andò a Roma, cominciò semplicemente a conoscere gente e ad incontrare e frequentare persone. Lo faceva molto bene, con molta signorilità. Si fa notare dagli editori, ai quali piacciono le sue caricature e i suoi fumetti. Nel 1939 Fellini lavora a Roma per una rivista umoristica, il Marco Aurelio. Ma non è tutto rose e fiori. Nel 1940 Mussolini scende in guerra al fianco di Hitler, nel secondo conflitto mondiale. A Federico non interessa servire militarmente il proprio paese e si procura un certificato medico per evitare la partenza. Sostiene di aver corrotto dei medici per farsi certificare patologie rare. Racconta anche una quantità di storie su come ha evitato di partire militare, come quella sul rapporto medico sparito a causa di un bombardamento proprio prima di essere esaminato per un rinvio. Lo staff del Marco Aurelio è un vivaio di ottimi scrittori, il cui contributo al cinema italiano diventerà ben presto leggendario. Quel mondo dell'avanspettacolo ha fatto la sua parte. Insomma, le persone che lavoravano al Marco Aurelio scrivevano anche scenette e programmi radiofonici, così come sceneggiature cinematografiche. Una volta che eri entrato in quel giro, potevi fare praticamente 6 o 7 cose diverse. In breve, Fellini si trova a scrivere per la radio. Nel giugno del 43 scrive una commedia su una coppia di sposini, Le avventure di Cico e Pallina. Una studentessa di recitazione di 22 anni, Giulietta Masina, conquista la parte di Pallina e il cuore di Federico. Lui udì la sua voce alla radio. La chiamò e le chiese di pranzare insieme. Fellini aveva un'aria d'artista, da boemienta, dice guarda, questo mi ha portato in questo ristorante, chissà che conto gli presentano, chissà se avrà i soldi per pagare, dice, perché c'era questo dubbio. E dice che invece alla fine Fellini tirò fuori un rotolo di biglietti da 1000 e pagò con grande indifferenza, signorilità, questo conto. Fu quasi un amore a prima vista, ma fu anche telepatia a prima vista. Entrambi erano appassionati di parapsicologia, di magia, di alchimia, di proiezioni astrali, e durante quel pranzo singolare vi fu una sorta di incontro di intelletti. Federico vide Giulietta come la sua musa, una musa molto divertente. E una delle cose che amava era vedersi riflesso negli occhi della sua Giulietta, che lo adorava senza riserve, che lo adorò dal giorno in cui lo conobbe fino al giorno in cui morì. Era l'uomo della sua vita e lei la donna della vita di Federico. Federico e Giulietta si sposano il 30 ottobre 1943. Ansiosa di diventare madre, Giulietta resta incinta poco dopo il matrimonio e nel 1944 dà alla luce un bambino, Pier Federico. Purtroppo, il piccolo muore dopo poco tempo. È un evento traumatico per entrambi. Lui e Giulietta non parlarono mai della morte del loro piccolo Federico. Lui sentiva che se lo avessero fatto, avrebbero reso tutto più reale e non avrebbero più sfuggito a quel senso di tristezza. Federico non è mai cresciuto, è rimasto un figlio, non è mai diventato un padre. Radio Doc. Proseguiamo con il radiodocumentario dedicato alla vita di Federico Fellini. Il regista definiva se stesso un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo. Ha lasciato opere indimenticabili, graffianti, ricche di satira, ma anche velate di una sottile malinconia. Ripercorriamo la sua incredibile carriera tramite la testimonianza di amici, colleghi e critici. Nel giugno del 1944 gli americani liberano Roma. Fellini apre un negozietto in cui fa caricature ai militari americani. Un giorno vede entrare il regista Roberto Rossellini. Vuole che Federico lo aiuti a scrivere la sceneggiatura alla quale sta lavorando. Il film è Roma città aperta, la storia di un prete che sfida coraggiosamente il regime fascista. Roma città aperta diventerà un classico del cinema italiano. Ancora oggi la scena in cui Pina muore, colpita da una raffica di mitragliatrice davanti agli occhi del suo bambino, mentre tenta di impedire l'arresto del suo uomo, resta una delle più emozionanti della storia del cinema. Roma Città Aperta riscuote immediati successi all'estero e dà il via alla carriera di Rossellini e di Fellini. Inoltre è l'inizio di un nuovo modo di fare cinema. È chiamato neorealismo, predilige la luce naturale, le persone reali invece degli attori, e talvolta diventa veicolo di un messaggio politico. Il neorealismo nasceva dall'urgenza della guerra. Aveva in sé un messaggio politico. Fellini non era molto bravo in questo. Era un acuto osservatore della società e della politica, ma non voleva scrivere un film con un messaggio. Ciononostante, per molti anni Fellini lavora come sceneggiatore con Rossellini e altri neorealisti, collaborando alla stesura di dozzine di sceneggiature di film, tra i quali alcuni memorabili. È durante la lavorazione di uno di questi film che Fellini, aggirandosi per le sale di montaggio, segue la post-produzione. Scopre così che non c'è il sonoro, solo l'immagine. I dialoghi verranno doppiati in seguito. Ha una folgorazione, vuole fare il regista. La sua opera prima è Lo sceicco bianco, la storia di una giovane provinciale infatuata di un eroe dei fotoromanzi, una farsa ispirata a un fumetto, la cui mescolanza di realtà e fantasia, di umorismo nero e romanticismo agrodolce, diventerà il segno distintivo di Fellini. Purtroppo Lo sceicco bianco non ottiene un gran successo di pubblico. Il suo nome rischia di tornare nell'oblio. Nel 1952 il primo fiasco di Federico Fellini come regista sembra fermare una carriera sul nascere. Poi dirige I vitelloni, un film parzialmente autobiografico, interamente girato a Rimini, la storia di cinque amici di professione nulla facenti. Per vitelloni si intende i vitelli messi all'ingrasso. Questi erano giovani senza un lavoro che si limitavano a gironzolare in gruppo, sempre a zonzo, per Rimini, dove Federico era nato. Giocavano a biliardo, guardavano le ragazze, fumavano e parlavano dei loro sogni. Il loro ritratto mi fece riflettere. I vitelloni è il primo grande successo di Fellini, grazie al quale ottiene considerazione come regista. Il film successivo è una fiaba che parla di un brutale uomo di circo, Zampanò, che prende con sé una ragazza sempliciotta, Gelsomina, per farsi assistere durante lo spettacolo. Per il ruolo dell'ingenua Gelsomina maltrattata da Zampanò, Federico sceglie sua moglie, Giulietta Masina. Lei aveva una faccia straordinariamente espressiva, tanto che fu definita il Charlie Chaplin in gonnella. Era un clown di natura. Bastavano delle semplici ciglia finte, un tocco di matita nera e subito aveva un aspetto diverso. Nella strada, Fellini attinge alla sua educazione cattolica per analizzare il concetto di salvezza e redenzione. Fellini usa la metafora della conversione, o ancora meglio, del ricevere la grazia. È una metafora cattolica, ma la usa per altri scopi. Se ne serve per scopi molto secolari, come un mezzo per cambiare una vita. Nel 1954 La strada vince il Leone d'Oro al Festival di Venezia e nel 1956 porta al suo regista l'Oscar come miglior film straniero. Quando vinse l'Oscar, il successo non gli diede alla testa, ma gli confermò di aver raggiunto il massimo traguardo nel cinema e lo rese più fiducioso nelle proprie capacità. È già un regista di successo in Italia, quando La dolce vita lo catapulta nel firmamento internazionale. Nel film, il mondo può vedere emergere il tratto distintivo del suo autore. Uno stile barocco, teatrale e imponente. È una visione grandiosa. Il film inizia con la scena di un elicottero che sorvola Roma trasportando la statua del Cristo che si libra nell'aria. Una sequenza maestosa. La dolce vita presenta una società corrotta e decadente, in cui i valori morali si sono persi, la libertà non ha limiti, e il peccato è un retaggio del passato. La dolce vita segue Marcello Rubini, giovane giornalista di riviste scandalistiche, in un caleidoscopico viaggio nella vita notturna romana. Marcello, interpretato da Marcello Mastroianni, è un uomo sull'orlo della decadenza morale e della disperazione. Lui indugia troppo, in modo morbido, tenero, troppo tenero. È una visione implacabile e in qualche modo deprimente di una società corrotta. Esternamente, però, questo film lancia l'immagine della dolce vita di questa attraente Italia degli anni 60. Nessuna scena è più attraente e straordinaria del momento in cui Marcello entra nella Fontana di Trevi per imitare l'attrice americana Anita Ekberg. La pellicola è ritenuta sconvolgente e scandalosa, addirittura condannata dalla Chiesa Cattolica. Ma La Dolce Vita vince il premio della giuria a Cannes, batte i record in cassa in tutto il mondo e ha un enorme impatto sulla cultura popolare italiana e internazionale. In seguito, i suoi film continuano a mostrare quell'immaginario ricco e a effetto che diventa il segno distintivo di Fellini. Satyricon è una bizzarra composizione visiva di lusso e immaginazione barocca, basata su un'antica opera romana. Diventa campione di incassi in un'era psichedelica. A ogni nuovo film l'immagine si fa più surreale, l'intreccio narrativo meno significativo e le recensioni sempre più critiche. Fellini probabilmente aveva avuto troppa libertà creativa dopo 8 e mezzo. A quel tempo cavalcava l'onda del suo straordinario successo, rifiutandosi di ascoltare le critiche. Infatti sul set di Giulietta degli Spiriti ebbe degli scontri terribili con il suo staff creativo, uno staff che lo aveva portato al successo internazionale. Era quasi come se Fellini dicesse che l'unica cosa importante era la sua immaginazione, unita alla supremazia dell'immagine. Nel 1973 Fellini completa l'ultima delle sue opere, ottenendo un enorme successo di pubblico. Amarcord, in dialetto riminese, mi ricordo. È un affresco nostalgico e satirico sulla sua adolescenza durante il periodo fascista. Doveva andare contro, doveva fare il peccato anche con le sue immagini. Allora prendeva il ragazzino con le tette da tabaccaia di Amarcord e affogava questo ragazzino dentro le tette di questa tabaccaia rossa e così. Amarcord non è solo un successo commerciale, ma porta a Fellini il suo quarto Oscar come miglior film straniero. Girerà molte altre pellicole, tra le quali Casanova, La città delle donne, E la nave va e Ginger e Fred, in cui lavoreranno per l'ultima volta Marcello Mastroianni e Giulietta Masina. Nessuno di questi però raggiunge il consenso unanime della critica ottenuto dai suoi primi film. L'ultimo lavoro, La voce della luna, che vede tra i protagonisti Roberto Benigni, non viene neppure distribuito in America. Non riuscendo a trovare finanziamenti per un nuovo film, il regista cade in depressione. I produttori non volevano più produrre i suoi film. Soprattutto dopo il fiasco del suo ultimo lavoro, La voce della luna, non c'era produttore a Roma che volesse scommettere su una nuova avventura di Fellini. Gli ultimi anni della sua vita sono i più difficili. Anche se è un regista leggendario, i suoi film da un po' di tempo non fanno incassi soddisfacenti. Il maestro muore a Roma il 31 ottobre 1993. I suoi funerali vengono officiati in una basilica romana e un'immensa folla si raduna nella piazza antistante. Il feretro viene riportato a Rimini, la città natale. Il regista muore 5 giorni dopo il suo 50° anniversario di matrimonio con Giulietta Masina. 6 mesi dopo muore anche lei. L'influenza di Federico Fellini però non morirà mai. Il suo stile particolare viene emulato in pellicole totalmente diverse come All the Jets, Lo spettacolo comincia, di Bob Fosse, Stardust Memories di Woody Allen e Toro scatenato di Martin Scorsese, in cui Jack LaMotta è una sorta di Zampano americano. Fellini è uno dei più grandi artisti del XX secolo, non solo come autore, ma in senso assoluto. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel lunedì 29 giugno alle 20. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.